Capitolo 12. L'espiazione Averill. Che cosa stai sognando, Ann? Le due ragazze si erano attardate una sera in una magica cavità del ruscello dove si era formato un piccolo spiazzo sul quale si intrecciavano le felci, tutto verdeggiante di tenera erbetta, mentre i rami di pero selvatico scendevano come tulle bianco, dolce e profumato. Anna si riscosse dal suo sogno a occhi aperti con un sospiro felice. Stavo pensando al mio racconto, Diana. Oh, l'hai cominciato? Gridò Diana, subito risplendente di interesse. Sì, ho scritto solo poche pagine, ma ce l'ho praticamente tutto in testa. Ho avuto un mucchio di tempo per pensare a una trama adatta. Nessun intreccio si adattava però a una ragazza di nome Averill. Non potevi cambiarle nome? No. Mi era impossibile. Ho cercato, ma non ci sono riuscita, non più che se avessi voluto cambiare il tuo. Era così reale per me che qualsiasi altro nome cercassi di darle, quello di Averill ricompariva dietro a tutti, ma finalmente ho trovato una trama che le si addiceva. Poi mi è venuta la smania di cercare i nomi adatti per i personaggi di contorno. Non hai idea di quanto fosse affascinante. Sono stata sveglia per ore a pensarci. Il nome del mio eroe è Percival Dalrymple. Hai dato un nome a tutti i personaggi? Si informò Diana con ansia. Se non l'hai ancora fatto, ti chiederei di lasciarmi dare il nome a uno soltanto, uno dei meno importanti, così avrei l'impressione di aver partecipato al racconto. Puoi dare il nome al piccolo sguattero che vive con i Lester, concesse Anna. Non è importantissimo, ma è l'unico rimasto senza nome. Chiamalo Raymond Fitz Osborne, suggerì Diana, che aveva pronto un intero repertorio di nomi nei recessi della memoria, relitti del vecchio club di scrittura, che lei, Anna, Jane Andrews e Ruby Gillis avevano creato ai tempi della scuola. Anna scosse il capo meditabonda. Ho l'impressione che sia un nome troppo aristocratico per un ragazzo di fatica. Diana, riesce a immaginare un Fitz Osborne che dà da mangiare ai maiali e raccoglie sterco? Diana non capiva perché, se uno possedeva fantasia, non potesse usarla fino a immaginarselo, ma probabilmente in fatto di fantasia Anna era più esperta. Alla fine fu deciso che lo sguattero si sarebbe chiamato Robert Ray, da abbreviarsi all'occasione in Bobby. Quanto credi che ti frotterà? Domandò Diana. Ma Anna non ci aveva minimamente pensato. Lei inseguiva la fama, non il vile guadagno. I suoi sogni letterari non erano contaminati da considerazioni mercenarie. Me lo farai leggere, vero? Implorò Diana. Quando l'avrò finito, lo leggerò a te e al signor Harrison e pretenderò che tu emetta un giudizio critico severo. Nessun altro potrà vederlo prima della pubblicazione. E come lo farai finire, bene o male? Non ne sono ancora sicura. Mi piacerebbe un finale tragico perché è davvero più romantico, ma so che i direttori di riviste nutrono pregiudizi nei confronti dei finali tristi. Una volta ho sentito il professor Hamilton dire che solo un genio può permettersi un finale tragico e, concluse modestamente Anna, io sono tutto fuorché un genio. Oh, io preferisco il lieto fine. Sarebbe meglio che li facessi sposare. Disse Diana che, specie dopo il suo fidanzamento con Fred, pensava che tutte le storie dovessero finire col matrimonio. Ma non ti piacciono le storie che fanno piangere? Oh, sì, quando questo succede a metà della storia, ma preferisco che alla fine tutto si sistemi. Ci devo mettere una scena tragica. Disse Anna con aria pensosa. Devo far sì che Robert Ray cada vittima di un incidente e scrivere la scena della sua morte. No, io non voglio che Bobby muoia, dichiarò Diana. Lui appartiene a me e voglio che viva e stia in buona salute. Uccidi qualcun altro se proprio devi. Nei 15 giorni seguenti Anna soffrì le pene dell'inferno e si beò delle gioie del paradiso, a seconda dell'umore nel dedicarsi alle fatiche letterarie. Ora si sentiva al settimo cielo per un'idea che le pareva brillante, ora entrava in preda alla disperazione per qualche personaggio che non ne voleva sapere di adattarsi al racconto. Diana non riusciva a capire. Falli agire come vuoi tu, disse. Non posso, si lamentò Anna. Everil è un'eroina così poco maneggevole. Lei fa e dice cose che io non ho mai avuto intenzione di farle fare o dire. E perciò rovina quanto viene prima e devo riscrivere tutto da capo. Finalmente il racconto fu ultimato e Anna lo lesse a Diana nel rifugio sul portico. Aveva realizzato la sua patetica scena madre senza sacrificare Robert Ray e, mentre la leggeva, osservò con occhio vigile le reazioni di Diana. Diana sussultò all'occasione e pianse al momento giusto, ma quando il racconto giunse alla fine, sembrò un po' delusa. «Perché hai ucciso Maurice Lennox?» domandò con aria di rimprovero. «Era un bruto», ribatté Anna, «meritava una punizione». «A me piace più di tutti gli altri», protestò Diana irriducibile. «Ebbene, lui è morto ad arrestare», disse Anna risentita. «Se lo mantengo in vita, si rimette a perseguitare Everil e Percival». «Sì, a meno che tu non lo faccia redimere. Non sarebbe affatto romantico, e poi la storia diventerebbe troppo lunga». «Vabbè, a ogni modo, si tratta di una storia decisamente affascinante, Anna, e ti renderà famosa, ne sono certa. L'hai trovato un titolo?» «Oh, ho deciso il titolo molto tempo fa, l'ho chiamata L'espiazione di Everil. Non è carino e incisivo?» «Adesso, Diana, dimmi onestamente se hai trovato delle contraddizioni nel mio racconto». «Allora», esitò Diana, «direi che la parte in cui Everil fa il dolce non è abbastanza romantica per adattarsi al resto. Fa solo quello che qualsiasi altro potrebbe fare, le eroine non devono cucinare, mi sembra». «Perché mai? È qui che entra in scena l'umorismo, è una delle parti migliori di tutto il racconto», ribadì Anna. E va detto che in questo aveva proprio ragione. Diana si trattenne prudentemente da ogni ulteriore commento, ma il signor Harrison si mostrò assai più difficile da accontentare. In primo luogo le disse che nel racconto c'erano troppe descrizioni. «Ah, oh, taglia via tutti quei brani in stile fiorito», sentenziò spietato. Anna aveva la torturante convinzione che il signor Harrison avesse ragione e si sforzò di depennare la maggior parte delle sue dilette descrizioni, pur trovandosi costretta a riscrivere la storia per ben 3 volte prima di riuscire a portarla in modo tale da ottenere l'approvazione dello schizzinoso signor Harrison. «Ho tolto tutte le descrizioni, tranne quella del tramonto», disse infine. «Non ne ho avuto il cuore, era la più bella di tutte». «Non ha nulla a che vedere con la storia», si accanì il signor Harrison. «E poi non avresti dovuto ambientare la scena nei quartieri alti, che ne sai tu dei ricchi? Perché non l'hai invece collocata ad Avon Lee? Cambiando il nome o altro, è ovvio. Probabilmente la signora Rachel Lynde avrebbe pensato di essere lei l'eroina». «Oh, non avrei mai potuto farlo», protestò Anna. «Avon Lee è il posto più grazioso del mondo, ma non è abbastanza romantico per essere lo sfondo di un racconto». «Io direi invece che ci sono state storie romantiche ad Avon Lee, e anche tragiche», azzardò seccamente il signor Harrison. «I tuoi personaggi invece non somigliano affatto alla gente reale, parlano troppo e usano un linguaggio eccessivamente forbito. C'è un punto in cui quel giovanotto, The Rhinepole, parla addirittura per 2 pagine e non lascia dire nemmeno una parola alla ragazza. Se fosse mai accaduto nella vita reale, lei gli avrebbe dato dei colpi in testa». «Non ci credo», disse Anna con voce spenta. Nel segreto del suo cuore era convinta che le cose belle e poetiche dette ad Avery l'avrebbero avvinto il cuore di qualsiasi ragazza. D'altro canto, era raccapricciante sentir dire che Everil, la serena, regale Everil, avrebbe dato dei colpi in testa a qualcuno. Everil avrebbe raggelato con un'occhiata nobilmente sdegnosa i suoi corteggiatori. In ogni caso, taglio corto l'impietoso signor Harrison, non capisco perché non se la piglia Maurice Lennox. Lui vale 2 volte l'altro. Ha fatto cose terribili, ma almeno le ha fatte. Percival non fa altro che blaterare scempiaggini». «Blaterare scempiaggini! Questo era peggio che dar colpi in testa a qualcuno!» «Maurice Lennox è il malvagio!» protestò Anna indignata. «Non capisco perché tutti quanti lo preferiscano a Percival!» «Ah, Percival è troppo angelico, è noioso! La prossima volta che crei un eroe, mettici un pizzico solleticante di natura umana!» Everil non avrebbe potuto sposare Maurice, è cattivo. Non aveva che da redimerlo. Puoi redimere un uomo, ma non puoi riportare sulla retta via un pesce fritto. Il tuo racconto non è male e può anche risultare interessante, lo ammetto, ma sei troppo giovane per scrivere una storia che rivoluzioni la letteratura. Aspetta una decina d'anni. Anna si ficcò bene in testa che la prossima volta che avesse scritto una storia non avrebbe chiesto pareri ad anima viva. Era troppo deprimente. Perciò non avrebbe letto il suo scritto a Gilbert, sebbene gliene avesse parlato. Se avrà successo lo leggerai quando verrà pubblicato, Gilbert. Ma se si dimostrerà un fallimento, nessuno dovrà mai vederlo. Marilla non ne sapeva nulla. Nella sua immaginazione Anna si vedeva mentre leggeva un racconto da una rivista a Marilla, catturandola completamente con il fascino della vicenda. Nel mondo della fantasia tutto è possibile, per annunciarle poi trionfalmente di esserne l'autrice. Un giorno Anna consegnò all'ufficio postale una busta lunga e panciuta, indirizzata, con la disarmante fiducia e inesperienza della giovinezza, alla più importante delle riviste importanti. Diana era eccitata quanto la stessa Anna. Quanto tempo pensi che dovrai aspettare prima di ricevere una risposta? Domandò. Oh, magari più di 2 settimane. Oh, come sarò felice e fiera se verrà accettato. Ma certo che verrà accettato. E probabilmente ti chiederanno di mandare altri scritti. Oh, Anna, un giorno tu sarai famosa quanto la signora Morgan, e allora quanto sarò orgogliosa di conoscerti, disse Diana, che possedeva il singolare merito di una generosa ammirazione per le capacità e i doni di madre natura dell'amica. Ma dopo una settimana di sogni deliziosi, giunse il brusco risveglio. Una sera Diana trovò Anna nel suo rifugio sotto il portico con lo sguardo spento. Sul tavolo giaceva una busta e un manoscritto spiegazzato. Anna, ti hanno rimandato il racconto? Disse Anna incredula. Sì, rispose brevemente Anna. Bene, quel direttore deve essere matto. Che motivazione ti ha dato? Nessuna. C'era solo una fascetta stampa che lo dichiarava impubblicabile. Comunque non ho mai avuto una grande stima di quella rivista, proclamò appassionatamente Diana. I racconti che propone non sono interessanti nemmeno la metà di quelli del Canadian Woman, sebbene costi assai di più. Suppongo che il direttore nutra dei seri pregiudizi nei confronti di chi non è Yankee. Non scoraggiarti, Anna. Ricordati che alla signora Morgan hanno rimandato indietro un mucchio di racconti. Manda il tuo al Canadian Woman. Penso che lo farò, dichiarò Anna risollevandosi. E se verrà accettato, ne manderò una copia al direttore americano. Ma taglierò la scena del tramonto, credo che il signor Harrison avesse ragione. L'esecuzione del tramonto fu compiuta, ma nonostante quell'eroica mutilazione, il direttore del Canadian Woman rimandò al mittente l'espiazione di Avery a stretto giro di posta, tanto che l'indignata Diana dichiarò che secondo lei non lo aveva neppure letto e giurò che avrebbe interrotto immediatamente l'abbonamento alla rivista. Anna raccolse il secondo rifiuto con la forza della disperazione. Chiuse il racconto a doppia mandata nel baule della soffitta in cui riposavano gli scritti del vecchio club di scrittura. Ma prima cedette alle preghiere di Diana e gliene regalò una copia. Questa è la fine delle mie ambizioni letterarie, dichiarò amaramente. Non parlò di quanto era accaduto al signor Harrison, ma una sera lui le domandò a bruciapelo se il suo racconto era stato accettato. No, il direttore della rivista lo ha rifiutato, rispose lei laconica. Il signor Harrison guardò in tralice il delicato profilo di lei, soffuso di rossore. Bene, suppongo che ne scriverai altri, disse in tono incoraggiante. No, non scriverò mai più un racconto, dichiarò Anna, con la definitività priva di speranza tipica dei diciannovenni quando una porta viene loro chiusa in faccia. Io non ci baderei più di tanto, disse il signor Harrison in tono riflessivo. Scriverei un racconto ogni tanto, ma non lo infliggerei a nessun direttore di rivista. Scriverei di gente e posti che conosco e farei parlare ai miei personaggi un linguaggio quotidiano, lasciando che il sole sorga e tramonti in santa pace senza farne un caso da prima pagina. Se dovessi infilarci dei malvagi, gli darei un'opportunità, Anna. Eh sì, darei loro proprio un'opportunità. Credo Credo che esistano davvero dei malvagi al mondo, ma devi girare un mucchio per scovarli, anche se la signora Lind crede che tutti lo siano. Ma parecchi di noi hanno da qualche parte dentro di sé un barlume di decenza. Riprendi a scrivere, Anna. No, è stato sciocco da parte mia cimentarmi in una simile impresa. Dopo Redmond riprenderò a insegnare. Io so insegnare, ma non so scrivere. Sarà tempo per te di cercarti un marito quando avrai finito a Redmond, decretò il signor Harrison. Non credo che si debba rimandare tanto il matrimonio come ho fatto io. Anna si alzò e tornò a casa. C'erano momenti in cui il signor Harrison era davvero intollerabile. Dare colpi in testa, blaterare e cercarsi un marito. Uffa! Capitolo 13. La via dei trasgressori. Davy e Dora erano pronti per la scuola domenicale. Dovevano andarci da soli, cosa che non era abituale perché la signora Lind li accompagnava sempre. Ma la signora Lind si era presa una storta e camminava zoppicando, e quel mattino sarebbe rimasta a casa. I gemelli, inoltre, rappresentavano tutta la famiglia perché Anna era andata via la sera precedente per trascorrere la domenica con amici a Carmody e Marilla aveva uno dei suoi mal di testa. Davy scese a pian terreno senza fretta. Dora lo stava aspettando nel vestibolo, tutta pronta per opera della signora Lind. Davy si era invece preparato da solo. Aveva in tasca una monetina per la colletta della scuola domenicale e un pezzo da 5 per l'elemosina alla chiesa. Portava la Bibbia in una mano e il notiziario trimestrale della scuola domenicale nell'altra. Conosceva le preghiere e il catechismo alla perfezione. Non li aveva studiati, per forza, nella cucina della signora Lind tutto il sabato pomeriggio? Davy dunque si sarebbe dovuto trovare in una buona e placida disposizione d'animo. In realtà internamente si sentiva come un lupo predatore. La signora Lind fece capolino dalla cucina quando lui raggiunse Dora. «Sei pulito?» gli domandò con cipiglio severo. «Sì, in tutte le parti di me che si vedono!» rispose Davy con uno sguardo insolente. La signora Rachel sospirò, nutriva pesanti sospetti circa il collo e le orecchie, ma sapeva per esperienza che se si fosse azzardata a condurre un'ispezione di persona, Davy se la sarebbe data a gambe e lei quel giorno non avrebbe potuto rincorrerlo. «Badate di comportarvi bene!» le mise in guardia. Non camminate nella polvere, non fermatevi sotto il portico a parlare con gli altri bambini, non dimenatevi e non contorcetevi nei vostri posti, non dimenticate il libro d'oro, non perdete le monetine e non dimenticate di metterle nel cestino, non bisbigliate durante le preghiere e non scordatevi di prestare attenzione alla predica. Davy non la degnò di una risposta. Si precipitò per la strada, seguito dalla mansueta Dora, ma il suo cuore era in subbuglio. Davy aveva sofferto, o riteneva di aver sofferto molti soprusi per mano e per bocca della signora Lind da quando costei era giunta a Green Gables. La suddetta signora non poteva convivere con qualcuno, avesse 9 o 90 anni indifferentemente, senza industriarsi di insegnargli a vivere in maniera corretta. E solo la sera precedente aveva messo il suo becco per impedire a Marilla di permettere a Davy di andare a pescare con la famiglia di Timothy Cotton. Davy si sentiva ancora ribollire di rabbia per questo. Non appena furono scomparsi dalla vista, Davy si fermò e distorse i lineamenti del viso in una smorfiaccia talmente spaventosa e terrificante che Dora, sebbene fosse a conoscenza delle notevoli doti del fratello in quel campo, si allarmò veramente per paura che non gli riuscisse più di farli ritornare alla normalità. «Che vada al diavolo!» esplose Davy. «Oh, Davy, non imprecare!» gli disse Dora costernata. «Dire al diavolo non è imprecare, o perlomeno non lo è esattamente. Poi io me ne faccio un baffo, che lo sia o non lo sia!» ribatté Davy indomito. «Ebbene, se proprio devi dire cose orribili, non dirle almeno di domenica!» implorò Dora. Davy stava per replicare, anche se dentro di sé era quasi convinto di essersi spinto un po' troppo oltre. «Ora mi inventerò una parolaccia tutta mia», dichiarò. «Oh, Dio ti punirà per questo», profetizzò Dora solenne. «Io penso che Dio abbia la testa dura», replicò Davy. «Possibile che non sappia che un poveraccio ha bisogno di sfogarsi in qualche modo?» «Davy!» urlò Dora, aspettandosi che Davy cadesse sul posto trafitto da una folgore, ma non accadde nulla. In ogni caso non ho voglia di sopportare oltre le prevaricazioni della signora Linde, sputacchiò Davy. Anne e Marilla hanno il diritto di darmi degli ordini, ma lei no. Mi metterò a fare tutto quello che lei mi dice di non fare. Guarda! In un silenzio sinistro e teso, mentre Dora lo fissava presa dal fascino dell'orrore, Davy saltò fuori dal sentierino erboso al centro della strada, si immerse nella polvere sottile che 4 settimane di siccità avevano ammucchiato sui bordi e vi camminò dentro, strascicando depravatamente i piedi fino a formare una densa nube. E questo è solo il principio, annunciò trionfante, perché ora me ne andrò sotto i portici a chiacchierare fino anche l'ultimo individuo non se ne sarà andato. Mi dimenerò, mi contorcerò e bisbiglierò e dirò che non ho letto il libro d'oro e adesso getterò via tutte le 2 monetine per l'elemosina. E senza indugio, Davy lanciò oltre lo steccato del signor Barry il 1 centesimo e il nickel con feroce soddisfazione. Sei stato ispirato da Satana, lo rimproverò Dora. Non è vero, non è stato lui, gridò Davy indignato. Me lo sono ispirato da me stesso e mi sto ispirando anche un'altra cosa. Non andrò affatto alla scuola domenicale, me ne andrò invece a giocare con i Cotton. Ieri mi hanno detto che oggi non si sarebbero recati alla scuola domenicale perché la loro mamma era fuori e non c'era nessuno a prepararli. Vieni anche tu, Dora, ci divertiremo un sacco. Io non voglio venire, protestò Dora. E invece devi, disse Davy. Se non vieni, dirò a Marilla che Frank Bell ti ha baciato a scuola lo scorso lunedì. Ma non ho potuto impedirlo! Non sapevo che l'avrebbe fatto! Strillò Dora diventando paonazza. Ma tu non gli hai dato schiaffi e non sembravi nemmeno un po' dispiaciuta, ribatté Davy, e le dirò anche questo se non vieni. Prendiamo la scorciatoia per questo campo. Ho paura di quelle mucche! Protestò la povera Dora cercando una via di uscita. Pensa un po' a farsi spaventare da quelle mucche, la derise Davy. Sono più giovani di te. Ma sono più grosse, replicò Dora. Non ti faranno niente, fila adesso. È magnifico. Quando sarò grande non mi starò ad annoiare andando in chiesa. Non ci andrò affatto. Penso che mi meriterò il paradiso da solo. Te ne andrai da tutt'altra parte se non santificherai il 7º giorno, pontificò l'infelice Dora seguendolo contro la sua volontà. Ma Davy non aveva paura. Non ancora. L'inferno era davvero lontano e le delizie di un pomeriggio di pesca con i Cotton piacevolmente vicine. Avrebbe desiderato che Dora avesse più fegato. Lei non faceva che guardarsi alle spalle ogni minuto, come se stesse per scoppiare a piangere. Il suo comportamento gli rovinava tutto il divertimento. Le ragazze erano sempre di troppo. Davy questa volta non disse al diavolo, nemmeno nel pensiero. Non era dispiaciuto, non ancora, di averlo detto prima, ma era meglio comunque non stuzzicare troppe volte in un giorno solo i poteri nascosti.